Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Messina, si scava ancora alla ricerca dei dispersi. Tra le case crollate molte erano abusive, dovevano essere abbattute. Bossi, se si va al voto siamo pronti. Nel governo si tornano ad evocare golpe e poteri forti. Ancora polemiche in Rai. Nobel per la medicina, gli studi sulla longevità. Premiati 3 ricercatori americani e per la prima volta 2 donne insieme. È morto uno dei padri dello Statuto dei lavoratori, Gino Giugni. Intervista a Pietro Ichino. Se ne va un uomo libero, la sua lezione è ineguagliabile. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Prima di andare a Messina per fare un quadro della situazione, una notizia appena diffusa dalle agenzie sono le motivazioni della sentenza con la quale la holding della famiglia Berlusconi, la Fininvest, è stata condannata al pagamento di 750 milioni di euro a favore della CIR di Carlo De Benedetti sulla vicenda del lodo Mondadori. Nella sentenza il giudice Raimondo Mesiano scrive che Silvio Berlusconi è corresponsabile della vicenda corruttiva appunto alla base della sentenza. Di questo parleremo più avanti nel giornale radio, anche con la reazione in borsa dei titoli. Veniamo appunto alla situazione a Messina. Quella appena trascorsa è stata la prima notte senza pioggia. Al momento il bilancio conta 24 morti e 35 dispersi. Ancora si scava naturalmente per trovare queste persone. Il Presidente del Consiglio promette case nuove in 4-5 mesi. Noi ci colleghiamo in diretta con Messina, dove c'è Giampiero Casagni. Giampiero, buongiorno, dove ti trovi? Buongiorno, siamo all'Hotel Europa, è una delle strutture che più tardi nel pomeriggio visiterà il Presidente del Senato Renato Schifani, che poco prima sorvolerà la zona. Siamo con Antonio Celona. Antonio Celona, quante persone vengono ospitate in questa struttura? Intanto abbiamo 128 ospiti, e 20 bambini, di cui un bimbo appena di 10 giorni, e il resto con circa 48 donne e il resto uomini. La media, ci abbiamo molti anziani con delle patologie anche abbastanza importanti che stiamo cercando di dare assistenza. Lei è il vicepresidente della cooperativa Faro 85, di cosa vi occupate? Cosa state facendo qui per gli sfollati? Sì, siamo la cooperativa sociale che negli anni opera sul territorio e in questo momento abbiamo avuto tutta la disponibilità di tutti i nostri operatori sociali presenti nelle strutture, in modo particolare una grandissima forza di gente, quale tutte le assistenti sociali, dagli animatori sociali e anche le figure prettamente professionali, quale psicologi e sociologi presenti nella struttura per la drammaticità dei casi che stiamo trattando. In questa struttura ci sono per lo più degli sfollati di 2 palazzine delle ferrovie dello Stato, sono quasi tutti pensionati delle ferrovie dello Stato. Grazie a Giampiero Casagni per questi aggiornamenti e per questo racconto. C'è un clientelismo che rispetto alle demolizioni mancate può portare ad eventi drammatici, a crimini che hanno fatto perdere la vita finora a 23 persone. Non si può che parlare di crimini in questi casi, lo ha detto il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, facendo riferimento alle notizie secondo le quali la polizia municipale di Messina aveva proposto l'abbattimento di 1200 costruzioni abusive nelle zone colpite dall'alluvione. Cristina Carpinelli ha intervistato il capo della polizia municipale, che ha firmato le 1200 richieste di demolizione mai eseguite, il comandante Calogero Ferlisi. Le dico che l'abusivismo edilizio è una concausa, perché chiaramente là c'è un dissesto idrogeologico che, per quanto riguarda la nostra attività repressiva, ecco, le do i dati degli ultimi 3 anni, gli interventi come sommati sono 1191. Cosa dice la normativa? Che bisogna attivare, e cosa che abbiamo fatto immediatamente, il Dipartimento Urbanistica per l'ordinanza di demolizione. Su questi dati numerici che le ho dato, nessun trasgressore denunciato alla Procura della Repubblica ha demolito il proprio manufatto abusivamente realizzato. Dopodiché cosa dice la normativa? Che lo stesso Dipartimento deve, dopo decorsi i 90 giorni di tempo che si dà al trasgressore per la demolizione, deve intervenire coattivamente con mezzi propri a spese dell'interessato. E morale della favola, le dico subito, nessun intervento di demolizione è stato fatto. E c'è un'altra polemica, è quella che riguarda il presunto allarme inascoltato sulle condizioni meteo. quanto è stato sottovalutato il rischio, che cosa non ha funzionato nella catena di comando, chi doveva attivarsi e come. Ruotano intorno a queste domande le polemiche sul presunto allarme inascoltato per l'alluvione in Sicilia. Il filo delle responsabilità è difficile da riavvolgere, spetterà alla magistratura farlo. Quello che è possibile ora è cercare di mettere in fila i fatti. Mercoledì 30 settembre il Dipartimento della Protezione Civile dirama da Roma un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È indirizzato alla regione e ai prefetti, che lo girano poi ai sindaci. Quest'anno in tutta Italia ce ne sono stati un centinaio. Gli scenari di rischio che si possono creare in base ad avvisi del genere, chiarisce una direttiva del 2004, devono essere valutati dal centro funzionale. In Sicilia non esiste. I suoi compiti, allertare prefetture e comuni, sono svolti da un funzionario. Giovedì 1 ottobre, il giorno del disastro, la Protezione Civile regionale emana un'allerta meteo in cui però il rischio idrogeologico viene definito ordinario. Paola Pagliara, responsabile del servizio idrogeologico del Dipartimento della Protezione Civile. La criticità era ordinaria perché i fenomeni meteorologici che erano attesi, di tipo temporalesco ordinario, potevano determinare una criticità che poteva e doveva essere affrontata con gli strumenti degli enti locali, e questo evento non si poteva prevedere, non era stato previsto così. Contemporaneamente la Protezione Civile a livello centrale dirama un secondo avviso che evidenzia nuovamente le condizioni meteo avverse. In questi casi, ci dice ancora Paola Pagliara, tocca alle autorità locali valutare sul campo la situazione, valutare anche l'ipotesi di evacuazione. Nella valutazione locale del rischio sugli effetti sono le strutture locali, i sindaci che devono operare per presidiare il proprio territorio e verificare che effettivamente le condizioni meteorologiche che sono in atto possono creare dei problemi al proprio territorio. Con il fenomeno in atto, perché lo stato di allerta che è stato richiamato la regione con le proprie procedure, era uno stato di preallerta, attivava i sindaci proprio a questa attività. Per Fortunato Romano, assessore alla Protezione Civile del Comune di Messina, tutto è stato fatto correttamente, ma è stato un evento straordinario. Il tavolo d'emergenza presso la prefettura è stato subito istituito. L'allerta meteo l'avevamo avuta per tempo, come c'era stata la settimana precedente e come c'era stata la settimana precedente ancora. Una cosa però è l'allerta meteo, una cosa è prevedere che la grande quantità di acqua che era caduta potesse creare un disastro di questo tipo. Non è semplice evacuare interi villaggi solo per un'allerta meteo. Naturalmente, se era prevedibile una cosa del genere, l'avremmo fatto, ma parliamo di una popolazione che insiste sull'area di quasi 2.000 persone. Non è semplice solamente per un'allerta meteo poter prendere 2.000 persone, le proprie famiglie, la sera alle 8 e portarli fuori. Bisogna essere molto attenti. Sulle polemiche io sarei molto, molto prudente. Il piano di emergenza in quelle aree, dicono ora le voci di corridoio, esiste solo sulla carta. Un'altra cosa che, oltre ad eventuali errori, omissioni e ritardi, le inchieste dovranno chiarire. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Questo il quadro. Nel frattempo è stata diffusa un'altra notizia, che esiste un fascicolo alla Procura di Messina che contiene il monitoraggio delle attività amministrative da parte del Comune e degli enti preposti successiva al 25 ottobre 2007, data di un'altra alluvione che colpì le stesse zone interessate al disastro di 4 giorni fa. Questo è quello che si apprende da fonti giudiziarie citate dall'ANSA. Ora cambiamo argomento e parliamo del Nobel per la Medicina 2009, che ha premiato le ricerche di base che hanno aperto la strada allo studio della longevità. Elizabeth Blackburn, Carol Greider, che tra l'altro per la prima volta sono le due donne insieme premiate con un Nobel, e Jack Stostak hanno scoperto la funzione delle strutture che proteggono l'estremità dei cromosomi, chiamate telomeri, e l'enzima che li costituisce, la telomerasi. Ci spiega di più il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, intervistato da Nicoletta Carbone. Sulla longevità e su come le cellule sono capaci di copiare i cromosomi durante la divisione e come le cellule sono capaci di proteggere i cromosomi dalla degradazione. Ecco perché è una ricerca che ha a che fare col benessere delle cellule, quindi in definitiva con la longevità. Tutto ruota intorno a un enzima che è capace di interferire con la parte finale dei cromosomi. I cromosomi, dentro i cromosomi è impacchettato tutto il nostro DNA, ha una parte finale, un cappuccio. Ecco, c'è un enzima telomerasi che protegge i cromosomi dall'accorciarsi. Quanto più un cromosoma ti si accorcia, tanto più la cellula invecchia e muore. Tanto più il cromosoma si allunga, tanto più la cellula è protetta dal morire. Professore Muzzi, quindi queste ricerche dove porteranno? Ma queste ricerche portano intanto a capire i meccanismi dell'invecchiamento, a capire i meccanismi della morte cellulare, a proteggere in un certo senso le cellule dall'invecchiamento precoce che caratteristico di tante malattie, e può portare anche ai tumori, perché paradossalmente nelle cellule dei tumori questi cromosomi sono più lunghi, e quindi questi telomeri, più che questi cromosomi, questi telomeri sono più lunghi, e quindi telometri lunghi vuol dire che queste cellule non muoiono, ma nel caso dei tumori noi avremmo piacere invece che queste cellule morissero. Ecco, queste ricerche su questo enzima telomerasi che governa le dimensioni di questo cappuccio cellulare da cui dipende quanto durerà questa cellula sono fondamentali per quello che impareremo nei prossimi anni sui tumori e anche per, chissà, per invecchiare meglio. Quindi mantenere il benessere ma allo stesso tempo diventare terapia per curare alcune malattie tra cui i tumori. Dove le cellule non muoiono mai. E ora ascoltiamo un po' di musica. Gracias, muchas gracias. Detta la negra per il colore dei capelli e per l'orgoglio di chi viene dalle province e sa imporsi nella capitale. Aveva 74 anni, Mercedes Sosa, la voce dell'America Latina, morta a Buenos Aires dopo una lunga malattia. Per il suo impegno politico era stata costretta all'esilio negli anni della dittatura militare argentina. E noi restiamo in Argentina, perché nello scontro tra titani di questo fine settimana al cinema, i Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, che non sono riusciti ad espugnare il regno di Baria, si inserisce un Davide, appunto un bel film argentino. Encuentro una clara referencia entre la obra de Jorge Ramírez y un movimiento que se llamó Art Brut. Una storia piccola ma deliziosa. Jorge lavora come infermiere in un istituto geriatrico. Tra i pazienti c'è il vecchio romano che non parla, non è autosufficiente, ma dipinge, dipinge. Quando Jorge recapita a una galleria i lavori di Romano spacciandoli per propri, la sua vita cambia all'improvviso e si ritrova catapultato nel mondo dell'arte contemporanea. Quello di El Artista è un mondo grottesco, buffissimo, ma anche un mondo difficilissimo per Jorge. È fracassato, mediocre. A medida che la película va avanzando. Lui è candido, disinteressato, sfortunato, mediocre e poco a poco scopre la vita, dice il regista Mariano Con. E per immaginare la figura di questo bizzarro protagonista, il modello è stato altrettanto bizzarro. Lì dice: mi personaggio si tiene che parecer a Riquelme. Ustedes conoscono al giocatore di football Riquelme? L'idea è venuta all'attore, che è anche un cantautore notissimo in Argentina, Sergio Pangaro, ispirarsi al calciatore Riquelme, tormentato ma geniale, che soffre ma ha guizzi improvvisi. Il tocco in più? Nel ruolo del vecchio romano, un famosissimo, serissimo scrittore argentino, Alberto Laiseca. Un telefono, e lo pongo in un museo, e dico, questo è arte, sono un artista. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:18 minuti, nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato della situazione a Messina, dove si scava ancora alla ricerca dei dispersi e ci sono varie polemiche che riguardano la tragedia. Abbiamo parlato dei Nobel per la medicina 2009 e poi abbiamo parlato della morte di Mercedes Sosa. Adesso ci occupiamo di politica, ci colleghiamo con il nostro Vincenzo Miglietta da Montecitorio per un punto di giornata. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, Vincenzo, si era pensato di partire con le vicende della RAI, in realtà sembra imporsi una questione che riguarda la maggioranza e che riguarda Bossi. Che cosa ha detto il leader della Lega di nuovo? Sì, praticamente la politica resta in primo piano, il senatore frena sulla proposta del suo collega Calderoli di tornare al voto dopo che si è stretto un pochino il cerchio intorno a Berlusconi. Il PDL con Bondi e La Russa parla di attacco concentrico dei poteri forti per far cadere il governo e lancia per questo la proposta di una grande manifestazione di piazza. Il leghista Calderoli, come dicevo, va oltre e propone un ritorno alle urne. Bossi però frena: non penso che si andrà a votare, dice il senatore, che in ogni caso assicura la Lega è pronta. Dal carroccio sul caso Mondadori interviene Castelli, che spiega: si è riscatenata la battaglia giudiziaria in previsione di quel che dirà la Corte Costituzionale sul lodo Alfano. Questo un po' la reazione del centrodestra alle notizie che stanno arrivando nelle ultime ore proprio sul lodo Mondadori. Sì, tra l'altro qualche aggiornamento ve l'abbiamo dato in apertura di giornale, tra un attimo ci torneremo per vedere la reazione dei titoli in borsa. Intanto, Vincenzo, la questione Rai, la questione TG1 essenzialmente. Sì, TG1 ad alimentare le polemiche, il botta e risposta tutto interno al TG1 tra il direttore Minzolini e il comitato di redazione. Il primo, lo ricordiamo, è apparso in video e, tornando sulla manifestazione di sabato sulla libertà di stampa, ha affermato di non capire il senso di quella protesta. Da qui la reazione del CDR del TG1, che oltre a difendere l'imparzialità della testata ha chiesto ai vertici Rai una convocazione urgente per esprimere le sue preoccupazioni. Minzolini ha replicato dando dell'intollerante al CDR. Sul caso sono intervenuti anche il presidente della Rai Garimberti, che ha definito irrituale quanto accaduto al TG1, e il presidente della Vigilanza Zavoli, che ha confermato: ascolteremo Minzolini anche su questo argomento. E grazie Vincenzo per questi aggiornamenti, e noi veniamo appunto a quel che si diceva: la sentenza sul lodo Mondadori, che ha condannato Fininvest a pagare 750 milioni di euro a favore della CIR di Carlo De Benedetti. Fininvest farà ricorso in appello. Naturalmente nel frattempo, come si diceva, sono arrivate le motivazioni della sentenza, nelle quali si legge che Silvio Berlusconi è corresponsabile della vicenda corruttiva alla base della sentenza con cui la Mondadori fu assegnata a Fininvest. Anche su questo attendiamo naturalmente reazioni politiche. Andiamo però intanto sulle reazioni di borsa. Deborah Rosciani, cosa sta succedendo? Allora, succede che la reazione della borsa è stata decisamente originale. Intanto CIR più 9% in questo momento, a Piazza Affari è evidentemente il miglior titolo. In apertura di giornata non riusciva a far prezzo perché aveva un rialzo teorico del 18%. E qui ci siamo, la reazione ci sembra anche abbastanza motivata, no, dalle notizie che avete appena dato. Un po' meno ragionevoli, a giudicare da quello che ho potuto vedere questa mattina sul listino appunto milanese, le reazioni invece di Mediaset e Mondadori. Mondadori è partita con un ribasso di 3 punti percentuali, ha rapidamente guadagnato tutto quello che aveva perso e adesso è addirittura in rialzo di 4 punti subito dietro a CIR. Mediaset stessa cosa, è partita con un calo di 6,5 punti, non riusciva a far prezzo anche il biscione in avvio di seduta, dopodiché è partita e adesso addirittura guadagna 1 punto percentuale, per cui diciamo che il mercato è riuscito ad abbandonare abbastanza rapidamente questa vicenda, almeno a giudicare da quello che stiamo vedendo. Simone. Grazie Deborah per questi aggiornamenti e vedremo che cosa succederà nel resto della giornata. Adesso passiamo a parlare della morte dopo una lunga malattia di Gino Giugni, uno dei padri dello Statuto dei Lavoratori. Era nato nel 1935 a Genova, era avvocato e professore di diritto del lavoro. Ha legato il suo nome allo Statuto dei Lavoratori, appunto, e nell'83 venne aggredito dalle Brigate Rosse. È stato deputato del Partito Socialista e ministro nel governo Ciampi. Il ricordo del gius lavorista Pietro Ichino. Era un uomo libero, intelligente, arguto, generoso, sempre pronto a individuare le lobby e le piccole e grandi posizioni di potere che si autodifendono dalla vera libertà che deve contraddistinguere il mondo moderno. È una persona con cui era molto piacevole stare e da cui si imparava sempre molto anche nel dialogo minuto di tutti i giorni. Poi certo ci ha dato una lezione ineguagliabile e importantissima per l'intero sistema di relazioni industriali nel nostro paese e per il nostro diritto del lavoro. Lei si sentirebbe di dire che Giugni è una persona che ha trovato fortuna nella società italiana, oppure con questo suo ruolo acuto di riformista, come poi sappiamo quello che gli è accaduto nell'83, ha trovato anche delle persone che gli erano contro? Certamente è stato aggredito dalle Brigate Rosse come uomo cerniera, uomo di comunicazione e di dialogo tra il movimento sindacale e le istituzioni, come già in precedenza erano stati aggredite Rossa, Tarantelli e poi anni dopo D'Antona e Biagi. Resta il fatto che tutte le persone oneste, a destra come a sinistra, sul versante imprenditoriale come su quello sindacale, hanno riconosciuto l'enorme valore del suo messaggio. Parliamo adesso di un tema molto dibattuto nel nostro paese, ossia il nucleare. A questo era dedicato oggi il nostro sondaggio. Sentiamo com'è andata. Il ritorno al nucleare in Italia è ancora là da venire, ma intanto 10 regioni hanno già fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge che lo reintroduce. Questioni di metodo, con i governi regionali che non vogliono decisioni calate dall'alto, e di merito, riguarda un'energia da più parti contestata. La decisione delle regioni vede i nostri ascoltatori divisi. Secondo il 52%, le regioni ribelli hanno fatto bene. Capofila nella protesta è stata la Calabria. L'assessore all'ambiente Silvio Greco respinge però le accuse di un no ideologico. Lo dico anche provocatoriamente: se vogliono fare una centrale nucleare in Calabria, diamo l'autorizzazione. Lei lo sa la percentuale di comuni in dissesto idrogeologico di questa regione quant'è? Il 100%. Bianco o nero torna domattina alle 8:30. Per votare basta un clic su radio24.it o ilsole24ore.com. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci spostiamo nel nord-est, perché oggi la prima pagina del Gazzettino in edicola non era in italiano ma in veneto o friulano. Paolo Piacenza ha intervistato il direttore Stefano Regolini. Incontro col governatore. Galan, ecco percossa che le tre Venezie merita i giochi olimpici. Volley. Le azzurre, se ancora le più forti, prima in Europa strassando le olandesi. Messina, case nuove come all'Aquila. Berlusconi tra i senza abitazione della frana, faremo come in Abruzzo, is gay non manca. Direttore, allora perché questa prima pagina in veneto e in friulano oggi sul Gazzettino e cosa succede domani? Da domani il Gazzettino abbandona il formato tradizionale lenzuolo e diventa tabloid. Diventando tabloid accresce anche il proprio legame col territorio, nel senso che aumenteranno le pagine dedicate all'informazione locale. E quindi ci è sembrato che un modo per sottolineare questa vicinanza al nord-est, alle sue genti, alle sue culture, ai suoi valori, potesse essere quella di fare, come evento appunto eccezionale, tre prime pagine, una tradizionale in lingua italiana e le altre due, una in veneto e l'altra in friulano. E ora all'estero ci spostiamo in Grecia, dove ci sono state ieri le elezioni, sentiamo com'è andata. Il Partito Socialista PASOK di Giorgio Papandreou ha ottenuto una netta vittoria con il 44% dei suffragi e 160 deputati sui 300 del Parlamento unicamerale alle elezioni politiche svoltesi ieri, secondo i risultati ufficiali. Nuova Democrazia del premier uscente Kostas Karamanlis ha avuto il 33% e 91 seggi, con uno scarto negativo di oltre il 10%. Una vittoria travolgente, dunque, parzialmente causata dagli errori del governo Karamanlis, piegato dagli scandali di corruzione, ma arrivata anche grazie a un'immagine tecnocratica ed efficiente di George Papandreou, nato in Minnesota da madre americana, che raggiunge dopo due tentativi falliti la carica di primo ministro come riuscì prima a suo padre e a suo nonno. Papandreou ha promesso di ridare il sorriso ai greci varando un piano di stimoli da 3 miliardi di euro e un aumento dei salari per sostenere i consumi interni. Le prime mosse saranno fondamentali, la maggioranza assoluta non lascia alibi a George l'americano, che sogna di diventare l'Obama ellenico, con lo slogan Insieme We Can. Vittorio D'Arold, GR24, e Sole 24 Ore, Atene. In chiusura allo sport, con Inter e Sampdoria in testa alla classifica, il campionato lascia spazio alla nazionale che va a caccia della qualificazione ai mondiali di Sudafrica, un obiettivo che gli azzurri di Lippi centreranno con un pareggio sabato a Dublino contro l'Irlanda, battendo Cipro mercoledì 14 a Parma. Però nel frattempo c'è un'altra nazionale che festeggia, quella di pallavolo femminile, che si è confermata campione d'Europa. olimpiche, 3 finali consecutive, le ultime 2 chiuse con un trionfo, 16 partite europee di fila vinte, 4 soli set lasciati alle avversarie in 2 edizioni dei campionati continentali. Sono i numeri del dominio della nazionale di Barbolini, le cannibali azzurre che almeno in Europa non conoscono rivali. Per lo bianco, Gioli, Piccinini, Barazza e compagna, il 3-0 nella finale di Lodz contro l'Olanda ha fotografato un dominio che viene da lontano, da quando cioè la federazione ha imparato a programmare a lunga scadenza. Un progetto da cui in tanti dovrebbero imparare e che non si è fermato neanche dopo la brutta parentesi di Pechino. Quella sconfitta ai quarti nelle Olimpiadi è finalmente cancellata, risponde Barbolini. Ma sì, basta con Pechino. Basta nel senso che, voglio dire, le sconfitte sicuramente fanno parte della storia. Poi Pechino purtroppo, voglio dire, se uno vuole rivincere deve esserci da 3 anni, 4. Per cui adesso dovevamo pensare a far bene questo e adesso veramente godiamoci questa vittoria strameritata. Le ragazze terribili guardano già al futuro, appuntamento in Giappone a fine 2010 per il Mondiale, con l'obiettivo di riconquistare quel trono perso 3 anni fa. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Carmelo Lauricella. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.